Quando va? Dunque, ritorniamo qua in onda, ritorniamo qua con Weber e De Luzio, mentre veramente i miei amici qua stanno divertendo. Parlano di gatti, parlano di Juventus, tra pochi li prendo ammazzate, e parlano di Juventus, dunque do l'onore a Laura di leggermi la Juventus frase in onore di Pietro Rilanci, la numero 10. Con comodo, no, non la legge, non leggi una frase di Tacconi, pensate un po', dunque. La legge, non la legge, stai qua, no? Sì, no, no, allora la leggo io e tu guarda. Bah, cioè, gli piace così, vabbè. Dunque, Tacconi disse, a parte quello che ho vinto, essere stato alla Juventus è un'esperienza che ti rimane dentro. Diventa stile di vita. C'ha ragione. Anche se poi Tacconi se ne andò al Genova rinnegando tutti e tutti, ma questa è un'altra storia. Dunque, voi vi aspettate che mo mi metto, parlo del film, visto, non visto. Vi parlo di un film che invece è nei cinema, così. Giusto per spezzare un po' la monotonia, mio caro Nicola, abbiamo parlato di dei film veramente assurdi, già partendo da Ice White Chat, che se te lo sei visto, immaginati che bella discussione abbiamo fatto. Un film che è nelle sale da qualche giorno, ed è un film peraltro già copiato da una fiction americana. Ecco, I miei peggiori 15 giorni. In questo caso è un riadattamento all'italiano, addirittura qua dicono Totò e Peppino dei giorni nostri, in questo caso Siani e De Luigi, mai tale paragone fu così assurdo. Un film che narra le prese di un ragazzo che si deve sposare a meno di una settimana, un funerale e tanti imprevisti da risolvere. Comunque, leggo proprio la recensione, nasce una coppia comica destinata a una lunga serialità cinematografica e probabilmente televisiva. Dunque, De Luigi, Siani, protagonisti insieme a Cristiana Capotondi di La peggior settimana della mia vita. Zazza. Diretto dall'esordiente genovesi, film che arriva in distribuzione Warner. Ambientazione sul lago di Como, vicino casa di Clooney. Forse si vedrà anche la Canalis che sbrovola la sua tovaglia dopo mangiata. Ma meno male che mi chiudono il balcone perché stavo morendo anche di freddo. Il 4 novembre si muore veramente di freddo, va sicuro. Dunque, dicono che è liberamente ispirata alla serie di successo inglese firmata BBC dal titolo omonimo The Worst Week of My Life e ruota intorno alla settimana precedente al matrimonio tra De Luigi e la Capotondi, con Siani nei panni del migliore amico di lui, nonché scheggi impazzita di tutta la vicenda. Cioè, veramente, quando bisogna ammazzare i critici cinematografici non lo fanno mai, come in questa frase. Dunque, modello che è senza dubbio l'inarrivabile Hollywood Party di Blake Edwards, addirittura, e secondo le intenzioni degli autori interessava dare vita a una comicità di situazione anziché di battuta. Ma a parte gli scherzi, il film l'ho già visto un pochetto, me lo sono scaricato, non è tutta sta grande bellezza, ma ha un cast che è discreto: Monica Guerritore, Antonio Catania, Catania, dipende da dai vostri gusti. Se vi piace più il Catania visto in Aldo Giovanni Giacomo, ve lo chiamate Catania, se no lo chiamate Catania. Una sicurezza in ogni film, e addirittura due cantanti. Se Andrea Mingardi, che giustamente deve pagare le bollette, può essere una novità, la rottura di palle e questa risa che mo ce la troviamo dovunque. Una persona che non sapeva cantare, non sapeva recitare, ma improvvisamente si inserisce in ogni dove. E c'è anche il ritorno di una vecchia signora, ma sempre attrice di primo grado, la Gisella Sofio, che in molti di noi ricorderanno nei B-movie, quando faceva la moglie di Lino Banfi, faceva la moglie di Gianfranco Barra, eccetera. Una signora molto frufru che però sa fare il suo mestiere, su questo nulla ci piove. Potevo parlare anche del Grande Fratello, che nel cast c'è un Gondo, un principe indiano, c'è già la prima che si è stettata, termine inventato sul momento, ci ha mostrato la tetta, in questo caso quella di Salerno di 21 anni, non so i nomi, non li imparerò mai. E probabilmente si farà anche una puntata sul Grande Fratello, sui reduci del Grande Fratello, veramente, sui reduci delle scorse 11 stagioni. Perché non lo so, ma sono delle cose che devi scontare. Non lo so, ma non è che mi ammazzano qua a Luzio. Ecco, ho avuto l'autorizzazione da Cosenza direttamente, quindi la posso fare. Ecco. Grazie, grazie assai. Ma la notizia più che altro che Balzalloc. Sì, bravo. Ecco, se mo mi fai fare il programma, grazie. Non è che qua stiamo. Che cosa? Non fatevi riconoscere, ecco, perché siete due della Juventus, quindi dobbiamo portare il buon esempio in questa radio. Ma bisogna raccontare anche questa di Rip, poi la raccontiamo dopo. Sì, lo so, abbiamo raccontato quella di Tacconi. Vabbè, ma dà fastidio vedere una che impiastrica con le dita. Dunque, la notizia, sì, mo ti infilzo con l'evidenziatore, è quella di un ex ufficiale che uccide il regista per un lavoro non pagato. Addirittura, l'omicida che entra in teatro e spara due colpi, veramente una trama nella trama. Dunque, un qualcosa di assurdo. Muore dunque Mauro Currer per mano di Marco Pastorello, con il regista che non pagava. Ah, questo qua che l'ha ucciso, gli ha rovinato la vita, collaborazione di un film mai pagato, debito di 20-30 mila euro, che sono soldini, ma del resto hanno ammazzato qualcuno. In questo caso hanno ammazzato quelli che hanno fatto il flop sul film di Santuma. E qua l'ho contato precedentemente in una puntata di Radio Talk, non voglio ritornare sul discorso, ma peraltro questa buonanima, diciamo, morto di morte violenta, c'aveva una sua bella nomea di come crete. Dunque, alcuni suoi lavori precedenti, leggo qua dal pezzo, sono rimasti insoluti. E prima di iniziare, chi giustamente collaborava con questo Currer voleva essere pagato in anticipo. E dunque, voci di gravi problemi finanziari, promesse mantenute, circolavano da tempo. E al primo casting con quest'uomo, i dubbi notavano dopo che al suo nome risultavano tre ruoli per quello di regista, una cosa assurda. È entrato anche Incredibile Hulk nel frattempo e aveva comunque la fama, stiamo dicendo, caro Emilio, del regista ucciso. Sì, sì, sì, sì, ci mancherebbe. La fama di quello che non versava lo stipendio agli attori, questo Curreri che è stato sparato da una comparsa, ecco. La vittima, peraltro, era stata accusata di truffa da Striscia Notizie. Mi ricordo un po' quella coppia, anzi, di persone che si erano andate a riespacificare a strano amore, e dopo due mesi l'uomo l'ha crepata di mazzate, la donna, e l'ha uccisa in malo modo. Insomma, come si dice nelle nostre pare, Amarak ne c'è musto, ma Amarak ne c'è in gap, ma ci sono le versioni diverse. Dunque, veramente, come possiamo concludere? Concludiamo così come ha concluso il giornale. In questo caso, per la resa dei conti finali, si è presentato Pastorello, che ha firmato con il sangue l'ultima scena del cineasta Marco Curreri. Insomma, veramente storie che non vorremmo mai sentire, ma le ascoltiamo sempre con grande ribrezzo. Avevamo parlato dunque del film Siani e De Luigi, che nessuno avrà visto e nessuno vedrà mai. Mi fregano l'evidenziatore e sono un po' triste. Questo è il bello della diretta, sì, sì, la diretta del 4 novembre. Che non dico neanche che episodio c'è il 4 novembre, ma andate su Facebook e lo scoprirete sul mio profilo. Ormai non è che ogni volta possono farmi gli auguri alla gente. Calma, maneggio diventa pazzo. Sì, sì, mentre grazie. No, padre mai. Divendo semmai madre, sorella, eccetera, eccetera. Mentre qua si mandano i pizzini, le cose, eccetera, eccetera. Io non so, cioè faccio un programma veramente dove ognuno fa quello che vuole. Maneggio Acus e Trof. Acus e Trof, non lo so. Non ho capito un cacchio. Ah! Ecco. Qua mi fanno gli scherzoni in diretta. Non vorrei essere blasfemo, ma ci manca tanto così. Dunque, pregherei il mio regista di mandare una canzone 40 anni dei Mono Desiderembers, perché mo devo fare un cazziatone.